si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica cari ascoltatori, ben ritrovati. Si può fare, il nostro antidoto alle cattive notizie della settimana su Radio 24. Ospiti oggi al Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino qui a Verona. Dunque sarà sicuramente una radio spumeggiante in questi giorni, almeno per quanto riguarda i programmi che trasmettono qua e dalla regia sorridono, che trasmettono qua in diretta dal Vinitaly. Insomma, che dire, tra l'altro siamo ospiti dello stand Ferrari, dunque sarà senz'altro una radio e un programma, una puntata speriamo spumeggiantissima quella di oggi. Cominciamo subito, tra poco vi aspettiamo anche in diretta all'800 24 00 24 come ogni domenica con le notizie si può fare della settimana sul fronte della legalità nel milanese cibo antimafia distribuito nelle mense scolastiche a Basilio, per l'esattezza dal 22 marzo sarà proposto nelle scuole e nelle mense scolastiche un menù tutto a base di prodotti confiscati, nelle terre confiscate alla mafia e all'andrangheta. E dalla Sicilia, quando stare dalla parte della giustizia conviene anche economicamente, Catania norma antiracket, esentasse, attenzione, chi denuncia il pizzo non pagherà le imposte comunali per ben 5 anni, chi indicherà gli estorsori alle forze dell'ordine, un nuovo regolamento del comune, dunque niente più TARSU, niente più ICI, niente più tasse sull'acqua e sulla pubblicità per chi collabora con la giustizia sul fronte della denuncia del pizzo. Altra buona notizia della settimana viene da Padova, ma avevano detto scorda di andare al cinema quando 8 mesi fa è nata mia figlia, perché naturalmente non c'è più spazio per questo, e invece no, si può fare al cinema con bebè e biberon, film in prima visione allattando i pupi e cambiando i pannolini, accade a Padova, l'iniziativa si chiama Cinemamme. Ebbene, la depressione post parto, dicono, si può combattere anche condividendo risate ed emozioni, luci soffuse, volume basso per non disturbare i piccolini, spazio per carrozzine e fasciatoi e tutto quello che occorre per andare al cinema appunto con i bambini. L'iniziativa tra da Padova è piaciuta, si sposterà anche a Udine e a Trieste. Settimana tra l'altro caratterizzata di nuovo da rincari della benzina, e allora una buona notizia arriva dalla regione Marche, perché il caro benzina si può contrastare anche con iniziative della regione, e in questo caso la regione Marche cancellerà l'aumento di 5 centesimi dell'accisa della benzina che era stata costretta da una legge per, che introduceva la tassa sulle disgrazie. Insomma, sono solo 5 centesimi, non è molto, però nelle Marche la benzina costerà un po' meno. Queste alcune notizie della settimana, noi aspettiamo anche le vostre segnalazioni durante la settimana su Facebook, si può fare trattino Radio 24, tra poco in diretta, non dimenticate durante la settimana la nostra segreteria telefonica, la ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Questa è stata la settimana in cui insomma si è stretto sulla riforma del lavoro, e allora ecco due segnalazioni da parte di due ascoltatori. No alla delocalizzazione, la RAI con i soldi del canone non deve finanziare fiction che vengono girati all'estero, occupazione all'estero, disoccupazione in Italia. Angelo Ciaiola, presidente dell'Associazione Generici Italiana dello Spettacolo. Io volevo segnalare una ingiustizia che riguarda il discrimine dell'età, cioè 32-35 anni, che è un limite secondo il quale certi appunto i giovani che hanno superato questa età non possono presentarsi a concorsi, a borse di studio, soprattutto naturalmente nell'ambito privato, mentre l'ambito pubblico ha recepito questa disposizione che veniva dalla Corte di Bruxelles e lo considera illegale. Anche questo è un danno che va a carico dei giovani, perché in questo ultimo decennio non ci sono state concorsi in cui loro hanno potuto partecipare. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Money, money, money, come i soldi, le monetine che tintinnano nei registratori di cassa dei negozi, money anche come il business però che mette in crisi sempre di più alcune categorie di vecchi negozi che ci hanno magari tenuto compagnia nei nostri quartieri, nelle strade delle nostre città e poi chiudono per la concorrenza ormai ineludibile dei grandi, della grande distribuzione ma a volte anche degli acquisti online oppure degli affitti troppo cari nel centro delle città. Dall'America però arriva anche in Italia un movimento nuovo per contrastare questo fenomeno, si chiama Cash Mob, si sceglie un negozio in crisi che si vuole salvare, tutto è nato in America per salvare una enoteca di Buffalo e tra l'altro siamo anche in tema visto che oggi siamo appunto ospiti del Vinitaly, tanta gente si trova in questo negozio, fanno tanti acquisti concentrati nello stesso momento, insomma si dà una boccata d'ossigeno al negoziante, una forma di consumo consapevole. Ne vogliamo parlare con Luca Valzania che nella vita fa il manager marketing nel settore di internet e però in Italia ha fondato i primi cash mob che arrivano appunto dall'America. Buongiorno Valzania. Ciao a tutti, grazie dell'invito. Eccoci qua, allora il primo cash mob italiano, cioè il primo appuntamento in un negozio per dargli questa boccata d'ossigeno sarà a Milano, se siamo ben informati il 14 aprile. Intanto però, anche qui se sono ben informato, c'è stata ieri la giornata internazionale del cash mob, di che si tratta? Sì, dunque è un evento che è partito come giornata nazionale, quindi doveva essere limitato agli Stati Uniti, da dove è partito tutto. Poi però appunto vista la rapida espansione lo hanno trasformato in evento internazionale e molto semplicemente lo scopo era mettere in piedi un buon numero di cash mob tutti nello stesso giorno e erano più di 200, quindi un ottimo numero. Il motivo per cui non l'abbiamo fatto qui in Italia, in particolare a Milano, e che molto semplicemente non c'erano i tempi. Bisogna prepararle partito. Un po' le persone perché se, bisogna anche spiegarla questa storia, altrimenti uno dice facciamo un cash mob, facciamo che? E allora eccoci qua anche noi a spiegarlo. Prego Valzania, lei sta spiegando il motivo per cui non è stato fatto in Italia e il primo dovrebbe essere, me lo conferma, allora a Milano il 14 aprile, tra l'altro top secret il negozio che voi volete salvare, però ci vuol dire almeno quale, di che ambito stiamo parlando? Sì, allora la segretezza è una delle regole che sono state fissate, nessuna regola deve essere seguita per forza, ma quella della segretezza mi sembra una regola molto divertente. Lo scopo è duplice, creare un po' di mistero e non permettere ai partecipanti di formarsi diciamo un pregiudizio relativamente all'evento. Per esempio se tu sai che l'evento si terrà in un posto che veicola il prodotto X e a te il prodotto X non interessa, potresti anche decidere. C'è meno partecipazione, si rischia di avere meno partecipazione. Esatto, e quindi insomma teniamo alta la suspense. Insomma non ci vuol dire neanche la categoria a questo punto perché di prodotti venduti, perché proprio per questa ragione, per non sgonfiare il primo cash mob il 14 aprile a Milano. Vabbè, insomma, adesso resti con noi, ci abbiamo una pausa per il traffico, come sempre a quest'ora, e poi voglio fare con lei un elenco dei negozi, dei vecchi negozi che rischiano di sparire e che magari ci viene voglia di fare un cash mob per salvarli. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Oggi cari ascoltatori vi chiediamo all'800 24 00 24 qual è il negozio a cui siete affezionati nel vostro quartiere che non vorreste mai vedere chiudere. 800 24 00 24 tra poco in diretta. Stiamo parlando con Luca Valzania che è fondatore in Italia dei primi cash mob. Ci si trova in tanti di fronte a un negozio in crisi che si vuole salvare e si fanno tanti acquisti e si dà una boccata d'ossigeno e si tenta così di dargli una mano. Sono molte le categorie di negozi a rischio, basta guardare appunto nei propri quartieri e si vede che tirano giù purtroppo ahimè le saracinesche. Spesso insomma sono anche i negozi che vendono oggetti della nostra memoria. Batteria. andavamo a fare merenda dopo che avevamo giocato per strada quando eravamo bambini. Il negozio di dischi, per esempio, non solo i dischi in vinile, ma oggi anche i CD, insomma, non si trovano più i negozi con tutti i generi divisi e dove uno può andare e scegliere, farsi magari consigliare anche dal negoziante. Allora, tra l'altro, sono anche luoghi descritti spesso nella nostra commedia, nei film, perché insomma sono luoghi nei quali viviamo e ameremo ancora continuare a vivere. Sentiamo questo estratto, per esempio, un uomo d'acqua dolce, Antonio Albanese, che si ritrova a sua maniera in un negozio di dischi. My name is a countryman. Cercavo un CD sostanzialmente underground, molto underground. Ma non mi sembra, non mi sembra qualcosa di più. Get down! Nick Cave! Ma no, Nick Cave! Graham Barry! Ma non sono d'accordo, se mi permetti, non... Neanche, Pichi! No, non mi piace il nome, non mi... Attenzione! Lo so io! Attenzione! Lo sa lui! A questo punto, sentiamo! Ben Harper! Chi? Ho capito, l'uretra! No! Ian Kennedy. No. James Brown. No. Devo chiudere. E questo era il negozio di dischi, Antonio Albanese, l'uomo d'acqua dolce, ma ci sono il calzolaio, il ferramenta, la cartoleria, la libreria, specializzata, il negozio di fumetti, l'alimentari. Per il fornaio il discorso è un po' diverso, resistono almeno per ora, anche se sono accusati alcuni di vendere il pane che viene dalla Romania, ma lasciamo perdere. A proposito di fornai. Ciao quest, Pionta! Mi dia anche mezzo chilo di zucchero. Ma certo, sa chi mi ricorda lei? Donatella Erezione, quello di Splendito e Splendente. Uè, buongiorno. Si è fatti cavello dubbla faccia. Senta, bella signora, che ci do oggi? Vuole i sfilatini o ci do tutti in filone? So 3 chili e lascio, ce l'ho ficco dentro il sacchetto. Guarda, se torno dentro il pomeriggio ci faccio trovare un filoncino speciale. Pan per i suoi tenti. Allora torno nel pomeriggio. Alle 5, va bene? Per lei il filoncino speciale c'è sempre. Luca Valzani, animatore dei Cash Mob in Italia, qual è il suo negozio preferito, quello che lei personalmente vorrebbe salvare? Ma io direi, senza fare nomi, è molto semplicemente il negozio in cui mi si tratta bene e mi si dà qualcosa che nessun online store potrà mai darmi, quindi la personalizzazione del servizio e il fatto di farsi due chiacchiere, eccetera. Questo è l'elemento che può far vincere tutte queste realtà locali che magari non possono competere con i prezzi, ma che possono ben competere con la professionalità di chi le gestisce. Quindi, insomma, lei ci sarà naturalmente il 14 aprile, sì. No, dico, ovunque io trovo questo, sì, sono ben felice di tornarlo. Insomma, non si vuole sbilanciare, va bene, noi abbiamo fatto un elenco. Oggi vi chiediamo, cari ascoltatori, all'800 24 0024, qual è invece il vostro negozio del quartiere che vorreste salvare, non vorreste mai vedere chiudere, perché per voi è indispensabile. Grazie Luca Valzania, fondatore dei Cash Mob in Italia, e ci risentiremo dopo il 14 aprile, vedremo come è andata a finire. Buona giornata. Grazie, arrivederci. E adesso torniamo in tema, siamo al Vinitaly, abbiamo detto che insomma, il primo cash mob è stato fatto a Buffalo in America per salvare una enoteca. Potremmo magari chiedere qua attorno come va con le enoteche, con la vendita del vino sfuso o se si vende solo nei negozi, ma insomma adesso invece vogliamo entrare nel tema del Vinitaly, perché c'è un'iniziativa che ci piace, ci interessa, vogliamo raccontarla, e allora una breve introduzione musicale. Sotto casa mia, l'abbiamo già deciso, andiamo in trattoria, siamo in 7 affamati, si rischia la decenza, le macchine sono 2, si fa colla per la benza, i soldi sono pochi, ciò non è un problema, magari si può vendere il Krieg della tema, le sizze l'ho comprate poco prima di partire, ma giuro che non fumo, voglio prima arrivare. Eccoci qua, eccoci qua, ci sono molte belle storie che si incrociano anche qua al Vinitaly, il Salone Internazionale del Vino e dei Distillati di Verona. Quello che noi abbiamo scelto è questo, una proposta che arriva dalla comunità di Sant'Egidio, che ha portato qua l'esperienza romana della Trattoria degli Amici, si trova a Trastevere, e dove da un po' di tempo una quindicina di ragazzi disabili lavorano con soddisfazione, naturalmente loro, ma anche, e questo è il punto importante, soprattutto dei clienti, che gli avventori che vanno nella trattoria, chi fa il cameriere, chi fa lo chef, dimostrando insomma che si può fare, si può trovare un lavoro vero e dare un futuro professionale anche alle persone disabili, che normalmente trovano sì assistenza, ma per trovare un lavoro si sa, insomma, è sempre difficile. Ne parliamo con Giuseppe Di Pompeo, che è uno dei responsabili all'interno della comunità di Sant'Egidio proprio di questa iniziativa della trattoria. Buongiorno. No. Eccoci qua, perché avete scelto di essere presenti al Vinitaly, insomma una iniziativa in cui si parla di si assaggia anche tanto vino, però voi volete avere il vostro spazio per portare un messaggio. Abbiamo un problema con la linea forse? È caduta la linea, perfetto. Allora, niente, stavamo parlando di questo, vediamo se lo recuperiamo. Tra l'altro Giuseppe Di Pompeo, che è della Trattoria degli Amici, della comunità di Sant'Egidio, in trasferta a Verona al Vinitaly, è qui da qualche parte. Noi siamo allo stand Ferrari, lui è impegnato credo in trattoria, perché stanno preparando da mangiare, insomma è l'ora di pranzo, quindi tra poco, per cui credo che sia insomma a pochi passi da noi. Non so se riusciamo a recuperare la telefonata, forse no, eventualmente proviamo allora ad andare avanti con gli altri ospiti della giornata, perché insomma di cose da raccontare oggi ce ne sono molte. Che succede? Fatemi un cenno dalla regia per capire se riusciamo a parlare con Giuseppe Di Pompeo della comunità di Sant'Egidio. C'è qualche problema? Evidentemente sì. Va bene. Allora riprendiamo così con Amarcord il tema e rilanciamo le telefonate 800 24 00 24. Oggi vi vogliamo chiedere qual è il negozio che voi volete salvare, non vorreste mai vedere chiudere e che magari sareste anche disposti a partecipare a questi flash mob di cui abbiamo parlato, che esordiranno in Italia, un movimento che viene dall'America, il 14 di aprile a Milano. Non sappiamo quale negozio andranno a salvare, allora abbiamo scelto anche di parlare per esempio delle farmacie. Desidera? Quelle Ziguli. Ah. Ne vado ghiotto, quindi. Serve altro, visto che era interessato ai nostri profilattici? Ah, ha notato. Ma se insiste, mi parlavano di un anello. Ah, l'anello del piacere? Come no? Eccolo, ecco, qui. Me lo incarta, ecco, grazie. Sa come si usa? Ci saranno le istruzioni e... Vediamolo insieme. Ma perché? Non si preoccupi, sono qui per questo, è il mio lavoro. Ecco, signora, tutto, vediamo come c'è parte. Una linea di demarcazione, va rispettata. Indossare l'anello sul pene ben eretto, facendolo scorrere, quindi scorre. Capito, sul pene. Nel caso di insistere con... Sì. Lei è presente, no? Pene eretto, dico, a lei capita? Sa di cosa stiamo parlando, insomma. Ma certo che mi capita, non so cos'è un pene... Signora, è una cosa un po' privata, non ci sono altri reparti forse più interessanti, no? E noi abbiamo gli XL, ecco qua, gli extra large per dimensioni sopra la media, ma mi faccio vedere? No, per lei va bene una small. Guarda che cosa sta, cosa guarda, che small, adesso non è sede, però le garantisco che... Non sia imbarazzato. Oh, grazie, che a volte... Anche mio marito ce l'aveva piccolo, un burro di cacao. E va bene, sappiamo che in realtà le farmacie insomma sono state toccate da recenti provvedimenti di legge, le liberalizzazioni ne apriranno alcune migliaia in più, ma era un modo anche questo per parlare dei negozi di prossimità. 800 24 00 24, vi chiediamo oggi, sareste disposti a partecipare a un cash mob per salvare quale negozio che amate particolarmente nel vostro quartiere? E forse speriamo di recuperare anche gli ospiti della comunità, della Trattoria degli Amici, la comunità di Sant'Egidio, qui dal Vinitaly. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci di nuovo in diretta dal Vinitaly. Oggi si può fare. Abbiamo recuperato Giuseppe Di Pompeo. Buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Uno dei responsabili, finalmente, quello qua della Trattoria degli Amici di Trastevere, che si è spostata oggi a Verona per portare un messaggio. Ragazzi disabili che lavorano in una trattoria, con la soddisfazione loro, ma anche dei clienti. Di Pompeo, ci parli del perché di questa esperienza, del perché siete venuti a Vinitaly a portare questo messaggio? In una vetrina così importante di vini, diciamo, dei migliori vini italiani, non mancare, diciamo, anche il gusto della buona tavola, ecco, innanzitutto. E che poi buona tavola è anche un buon progetto, una buona prassi, diciamo, di inserimento di lavorativo di persone disabili, è ancora meglio. È dimostrare che possono e lavorare di qualità. Come la chiamiamo noi. Ecco, sì, adesso lo risentiamo. Abbiamo qualche problema sulla linea, tra l'altro è buffo perché siamo a pochi metri di distanza. Credo che più di questo non si riesca a fare. Io le volevo chiedere anche se è vero che avevano il sommelier a Stemio, alla trattoria degli amici. Certo, lo avete? Valentini, che è un disabile, ma... No, niente, non riusciamo purtroppo, ahimè, a sentire Di Pompeo. L'iniziativa comunque l'abbiamo raccontata, è questa, la trattoria degli amici di Trastevere si sposta al Verona, al Vinitaly, per portare questo messaggio, ragazzi disabili che lavorano, chi fa lo chef, chi fa il cameriere in una trattoria, e questo è un messaggio anche, insomma, per altre realtà magari meno organizzate, meno grandi rispetto alla comunità di Sant'Egidio, ma insomma anche questo si può fare. 800 24 00 24, abbiamo un paio di ascoltatori che ci chiamano. Agostino da Milano, quale negozio vorrebbe salvare? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Dunque, il negozio, l'avevo già detto lì alla sua signorina, innanzitutto grazie per lo spazio. Il negozio si chiama Non Solo Pane, è aperto da circa, più o meno 50 anni, ed è in una zona a Milano abbastanza popolare, in fondo a via Marmao. Quindi non ha solo pane, ma anche qualcosa d'altro. Se ci date delle idee per portarlo avanti, visto che chi conduce il negozio c'ha moglie, dei bambini, eccetera, mi fate un piacere. Agostino, insomma, noi abbiamo parlato di questa iniziativa che viene dall'America, si chiama Cash Mob, potete organizzarla anche voi nel vostro quartiere in McMahon a Milano, andate in tanti, fate un po' di acquisti, gli date una boccata d'ossigeno e create anche un po' di sensibilizzazione intorno al tema. Vogliamo capire anche se questa cosa funziona, può funzionare davvero, oppure se è una idea di marketing magari divertente ma che non è in grado di produrre reali effetti. Poi su questi negozi abbiamo anche Elena che ci chiama da Verona. Buongiorno, lei cosa vorrebbe salvare? Buongiorno, sono Elena da Verona e io vorrei salvare. Allora, guardi, io sono in centro storico di Verona, per cui abbiamo la ZTL e abbiamo, diciamo così, pochissimi negozi di alimentari, di vicinato, come si chiamano in gergo, e niente, abbiamo delle persone anziane che, se non hanno nipoti, figli, quant'altro, che provvedono loro per la spesa, sono tagliate fuori, e abbiamo alcuni negozietti alimentari che purtroppo oramai ultra settantenne i gestori, e questi sono destinati a chiudere. Allora io personalmente, così, visto e considerato che peraltro sto, diciamo così, accendendomi alla campagna elettorale per Verona, voglio proprio portare avanti questa battaglia di incrementare la piccola distribuzione nei quartieri, perché è quello che il cittadino normalmente vuole e vorrebbe. Grazie Elena che ci chiamava da Verona, un'altra idea, un'altra iniziativa, questa volta appunto da Verona. Abbiamo parlato di negozi in crisi, Cash Mob, 800 24 00 24, tra poco qualche altro intervento degli ascoltatori. 7 a.m. waking up in the morning, gotta be fresh, gotta go downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal, seeing everything, the time is going, ticking on and on, everybody's rushing, gotta get down to the bus stop, gotta catch my bus, I see my friends, kicking in the front seat, sitting in the back seat, gotta make my mind up, which seat can I take? It's Friday, Friday, gotta get down on Friday, everybody's looking forward to the Rebecca Black, Friday. Tra l'altro questa canzone è stata definita poco tempo fa dalla stampa anglosassone una delle peggiori, inserita nella lista delle peggiori canzoni di sempre, ma perché insomma non è malaccio, tutto sommato è divertente, anche se la voce sembra quasi campionata, lei forse addirittura è anche un po' stonatina. È uno dei tanti fenomeni tra le giovanissime teenager americane che cantano. Tutti aspettano il venerdì, però, lei dice in questa canzone, per festeggiare semplicemente la fine della settimana a scuola, ma ma anche al lavoro. E allora alla Mattel Italia a Milano, da un po' di tempo a questa parte, il fine settimana inizia qualche ora prima rispetto agli altri uffici, perché dall'inizio dell'anno c'è una nuova politica aziendale che noi salutiamo con grande favore, per andare incontro, insomma, ai dipendenti, per diminuire lo stress. Ci sono il caffè gratis, la sala relax con massaggi, e venerdì all'ora di pranzo tutti liberi, tutti a casa per il fine settimana. Insomma, si lavora anche un po' di meno, ma si lavora meglio, un modo per stare bene in azienda. E allora ne parliamo con Annalisa Sala, che è direttore delle risorse umane della Mattel Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, insomma, di casi di cosiddetto welfare aziendale se ne sentono ogni tanto. Poi qualcuno potrà dire, beh, ma la Mattel è un'azienda grande, se lo può permettere. Però ricordiamolo, tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo un bel passo. Altri parlano, voi invece avete fatto qualche cosa. Come nasce questa idea di migliorare le condizioni di lavoro e di vita dei vostri dipendenti? Ma allora, l'idea nasce proprio dai dipendenti stessi. Abbiamo ascoltato un po' i loro bisogni. In un momento come questo i dipendenti cercano e chiedono soprattutto tempo e benessere. Quindi abbiamo cercato di restituire il primo fattore, che è il fattore rilevante ai giorni d'oggi, che è quello del tempo. Questo ci ha portato a fare una serie di pensieri su come avevamo organizzato l'orario di lavoro, su come poter andare incontro ai dipendenti anche con una serie di servizi che non avevamo previsto prima. Sono nate una serie di idee dagli dipendenti stessi, perché loro hanno sottoposto una serie di richieste. Noi le abbiamo vagliate come gruppo di management, ci siamo seduti intorno a un tavolo e abbiamo pensato a che azienda volevamo e quindi sostanzialmente a quale di queste iniziative potevamo dare seguito. È nato quindi un progetto che si chiama Mattel per te, che ha all'interno una serie di iniziative dedicate proprio al work-life balance. Tra queste, come giustamente diceva lei, c'è una riorganizzazione dell'orario di lavoro con una maggiore flessibilità sia la mattina che la sera, e con un venerdì pomeriggio libero per consentire a tutti di, come dire, avere più tempo per se stessi e di poter anche gestirsi i propri impegni extra lavorativi, avendo una mezza giornata che non è da tutti avere, insomma. Poi ci sono anche altre iniziative, come per esempio la stanza del relax, mi diceva lei, cioè un posto nel quale ci si mette così a tirare un po' il fiato, visto che una delle cose che sono emerse appunto dalla vostra indagine è c'è troppo stress in azienda. Invece voi avete fatto questo anche poi per migliorare, credo, forse il lavoro anche di queste persone. Certo. Certo, come le dicevo, i dipendenti ci hanno segnalato anche in queste loro risposte ad una survey che noi abbiamo ogni 2 anni, questa esigenza, questo bisogno di andargli incontro sul tema dello stress. Sembra che nei contesti lavorativi, insomma, lo stress è sempre molto alto, i ritmi sono serrati, quindi abbiamo pensato ad una serie di iniziative legate anche al wellness, al benessere di queste persone. Quindi abbiamo creato nei nuovi uffici uno spazio che è una wellness room con una serie di macchinari, musica soft, dove le persone possono andare in qualunque orario della giornata, è sempre aperta dalla mattina alla sera, a ritrovare un po' di benessere facendo un po' di stretching, facendo un po' di massaggi, e una volta al mese ci sono anche dei massaggiatori esperti che vengono proprio per massaggiare i nostri dipendenti. Non è che poi c'è qualche capo ufficio che li va a ripescare e li porta in ufficio a lavorare? In realtà l'iniziativa è nata proprio per i capi ufficio, quindi solo per loro, cioè gli altri invece no, è nata per tutti, e tutti devo dire che hanno avuto molto piacere di parteciparvi. Certamente abbiamo fatto, come dire, abbiamo cercato di convincere anche i capi ufficio a convincere loro stessi, le loro persone, no? Perché poi sono, come giustamente diceva lei, i capi ufficio quelli che veicolano poi i messaggi giusti, sono i manager di ogni department. Immagino che poi, insomma, ecco, tutto si basi anche su un senso di responsabilità, perché naturalmente uno non sta per delle ore nella stanza relax. Senta, domandarle quale sia stata la risposta dei dipendenti credo che sia superfluo, perché saranno tutti esplosi di gioia quando hanno saputo di queste iniziative e vivendole giorno per giorno ve lo manifesteranno, credo, col sorriso. Ecco, sì. Però venendo un po' sul pratico, quanti dipendenti avete e quanto avete fatto un conto, quanto vi possono costare in termini economici queste pratiche, oppure se invece c'è un guadagno anche per l'azienda? Ma allora, noi siamo oltre un centinaio, un'azienda che è un'azienda commerciale, è un'azienda fatta anche di persone abbastanza giovani, per cui come giustamente diceva lei, il sorriso si vede nei corridoi. Detto questo, è un progetto che è appena nato, perché è un progetto che abbiamo lanciato all'inizio di quest'anno, quindi i frutti li vedremo tra un anno, magari facciamo un'altra telefonata tra un annetto e le racconto com'è andata. Certamente a livello di ritorno di questo investimento, io credo molto che lo stare bene in un contesto lavorativo lavori anche sul sulla produttività, quindi le persone lavorano meglio, se stanno meglio. Questo ci succede, per ciascuno di noi lo può capire. Senta, ma secondo lei, lei consiglierebbe anche ad altre aziende, magari più piccole della vostra, perché più grandi probabilmente è più facile affrontare un percorso del genere, di mettersi su questa strada? C'è una soglia, secondo lei, sotto la quale non è possibile fare, oppure si può sempre provare a creare degli ambienti di lavoro come quello che state cercando di fare voi? Sì, secondo me si deve, bisogna ascoltare le proprie persone, non tutte le aziende sono uguali, quindi la nostra azienda chiedeva tempo e benessere, possono esserci altre richieste, bisogna capire il contesto aziendale in cui si lavora prima di proporre delle iniziative, quindi io credo che sia veramente importante adattare l'iniziativa che si propone alla realtà in cui si vive, ascoltando veramente le persone che ci lavorano per capire che cosa chiedono, solo così si può poi avere successo in una politica di questo tipo. E va bene, grazie allora ad Annalisa Sala, direttore delle risorse umane della Mattel Italia, che ci ha parlato di questo importante progetto, questa nuova strada per stare in azienda. E da parte nostra, insomma, c'è anche una grande invidia. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. E quindi, insomma, avete sentito quello che succede alla Mattel Italia, insomma, sono buone notizie. Noi aspettiamo durante la settimana le vostre segnalazioni anche sulla nostra pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24, non fatemi fare brutta figura con gli altri programmi che hanno molti più amici, andate sulla pagina Facebook di Si può fare e cliccate mi piace e lasciate le vostre segnalazioni, le vostre notizie, le vostre curiosità, e poi potete anche chiamare alla nostra segreteria telefonica il messaggio per salvare l'Italia in un minuto durante la settimana, 800 28 12 12. La mia idea è quella di fare un Facebook per l'amministrazione pubblica, poter accedere a tutti i dati come le lauree universitarie. Io vorrei togliere la cittadinanza a tutti gli italiani che ritengono sempre il dover demandare a terzi la soluzione dei loro problemi. Finché non ci sarà un'educazione che spinga ognuno di noi a compiere prima il proprio dovere e poi far valere i propri diritti, non demandando a terzi la protezione dei nostri diritti, ma il fatto fondamentale è rinnovare la scuola, farla diventare veramente un centro di educazione in senso lato. A presto e tanti auguri. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Evviva amici sportivi, amici ferraristi all'ascolto, ha vinto la Ferrari e insomma anche da queste parti c'era qualcuno sintonizzato che stava già festeggiando. E allora, visto che però è quasi l'ora di pranzo, adesso è venuto il momento dei consigli dell'Università del Saper Fare per qualcosa che riguarda appunto un possibile consiglio per il pranzo. Si può fare! Abbiamo in collegamento Marina Diaz, che è tante cose, una ragazza spagnola che vive in Italia, giornalista, fa l'insegnante di spagnolo, fa anche la cameriera, fa tante cose e fa anche tante cose a casa sua per sé, per la propria sopravvivenza, risparmiando quindi di andare a fare la spesa. Lei fa parte del Movimento per la Decrescita Felice e anche una di quelle persone che organizza i corsi dell'Università del Saper Fare ogni settimana. Un consiglio, oggi ci parla di un alimento che può sostituire la carne. Marina, buongiorno. Buongiorno. Alimento vegetale, credo, che io non conosco direttamente, ma ne ho sentito parlare, il seitan. Sì, sì, sì. Che sì. Cos'è, il come si fa? Sarebbe la proteina vegetale, il glutine del grano, insomma. Sì? E lei se la produce a casa da sola? Scusami? E tu te la produci a casa da sola, quindi diciamo risparmiando anche su costo d'acquisto e essendo sicura di mangiare una cosa sana. Come si fa? Allora, si ottiene dalla farina, quindi si fa un impasto con la farina e con l'acqua, senza il sale, si lascia questo impasto in umido, a riposo, e poi si fa un lavaggio o risciacquo del composto in acqua fredda. Per quanto tempo si lascia a riposo prima di fare il lavaggio? Quanto tempo a riposo? Allora, possiamo lasciarlo un'ora a riposo, per esempio. E poi evacuiamo, scusa, con l'acqua fredda. Dopo di questo risciacquo, che può durare dal quarto d'ora ai 20 minuti, massimo mezz'ora, possiamo usare questa pallina, che otteniamo una pallina che è di colore piuttosto giallo, prima era bianco, poi quando l'amido è andato via, la farina è fatta soprattutto di amido e glutine. Quando l'amido, che è la parte bianca della farina, è andata via, infatti vedremo che l'acqua che ne esce è tutta bianca, sì, rimane un'altra pallina più piccola, più o meno la metà di quella che avevamo in origine, e lì, quella lì è già una rete, vediamo che ha già la forma di più di rete che all'inizio, che era un impasto come quando facciamo tipo la pizza, il primo impasto, e poi invece la forma è già diversa, è più giallina, perché il colore del glutine è più sul giallo, e lì questa pallina che abbiamo ottenuto la mettiamo in un brodo che abbiamo preparato, con l'acqua, la salsa di soia, un'alga che si può usare, quella kombu, quella kelp, possiamo un po' scegliere, la più conosciuta magari è la kombu comunque, l'aglio e la passata di pomodoro. Per quanto tempo? Per ben 2 ore. E poi è pronto? E poi è finito, cioè poi il seitan è ottenuto, nel senso che lì si tratta di cuocerlo in qualche modo, emulando un po' quello che è l'uso della carne, quindi si può fare alla piastra, mi dicevi impanato, si può fare in molti modi. Si sposa col vino, per esempio col vino rosso, noi qui siamo a pochi passi da stand meravigliosi del Vinitaly, quindi ci è venuta fame e anche sete. Si sposa quindi col vino, perfetto. Allora, questo è uno dei consigli, questa volta Marina Diaz, l'Università del Saper Fare, siamo in provincia di Torino, grazie, e ci risentiremo magari più avanti per altri consigli. Lei è una di quelle persone che vive facendo molto da sé. Grazie Marina, buona giornata e buon appetito. Grazie a te, arrivederci. Adesso ci spostiamo velocissimamente a Bologna. L'avevamo incontrato la settimana scorsa il nostro Fabrizio Mori, titolare del bar dell'Accademia di Via Guerrazzi, per un'iniziativa d'aperitivo per cani. Insomma, un'iniziativa felice. Fabrizio, buongiorno. Pronto, buongiorno. Noi inizio. Siamo quelli dell'ultimo minuto, abbiamo solo 2 minuti, però ci avevi annunciato un'idea che oggi andate a realizzare a Bologna. Chi si troverà a passeggiare tra poco nel centro di Bologna troverà un sacco di gente armata di scope e stracci, perché avete in testa, credo, idee non brutte, non pericolose, no? Certo, cerchiamo di pulire le strade di Bologna, alcune strade. Diciamo che abbiamo a Bologna abbiamo 12 porte, ogni domenica del mese facciamo una porta e veniamo verso le 2 torri e cominciamo a pulire con le scope, siamo tutti volontari. Quindi ogni domenica del mese una porta? Una porta, esatto. Questa quindi domenica che porta fate? Così vi ci diamo l'appuntamento. Porta Santo Stefano. Fabrizio, noi siamo in chiusura perché abbiamo davvero esaurito il tempo, abbiamo avuto problemi con la linea. Comunque l'appuntamento l'abbiamo dato, ripuliamo Bologna, scopa e stracci, porta Santo Stefano, la settimana prossima chissà dove. Grazie a tutti, alla regia, a Milano, a Roma, con il programma ci sentiamo domenica prossima e buona giornata dal Vinitaly.